529. Arrosto d'agnello alla retina. L'agnello comincia ad essere buono in dicembre e per Pasqua o è cominciata o sta per cominciare la sua decadenza. Prendete un cosciotto o un quarto d'agnello, conditelo con sale, pepe, olio e un gocciolo d'aceto, bucatelo qua e là con la punta di un coltello e lasciatelo in questo guazzo per diverse ore. Infilatelo nello spiede e con un ramoscello di ramerino ungitelo spesso fino a cottura con questo liquido, il quale serve a levare all'agnello il sito di stalla, se temete che l'abbia, e a dargli un gusto non disgradevole. Piacendovi, più pronunziato l'odore del ramerino, potete steccare il pezzo con alcune ciocche del medesimo, levandole prima di mandarlo in tavola.